Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Siamo vicini alla Pasqua, anche a spese magari alimentari un po' diverse rispetto al solito. Come cambia la spesa, come cambiano i prezzi in questa Pasqua 2014? Ci facciamo aiutare in questo dall'Associazione Difesa Consumatori di Mestre con un'indagine proprio sul settore. Ben trovato al presidente dell'Adico Carlo Garofolini. Ciao Carlo. Ciao Mirko, un saluto a tutti gli ascoltatori. Come da buona tradizione alle soglie delle festività, quindi il Natale e la Pasqua, voi fate appunto un'indagine per verificare la situazione, puntando ovviamente in queste settimane ai prodotti tipici che vengono venduti e prodotti per la Pasqua. Sì, come ha detto Mirko, ogni anno alla vigilia di certi momenti importanti, quasi ad esempio la Pasqua, noi cerchiamo sempre, anche in collaborazione con i partner che collaborano con l'Adico, in questo caso con il portale risparmiosuper.it, di monitorare un po' l'andamento dei prezzi, anche comparandoli rispetto all'anno scorso. E certamente per l'anno di Pasqua non potevamo che non verificare quello che è l'andamento delle uova e delle colombe, anche comparando un po' le varie province della regione, cercando di individuare non solo l'andamento dei prezzi, ma anche dove questi prezzi si possono rivelare più convenienti rispetto ad altre zone. Mi pare che sia stata la provincia di Padova quest'anno virtuosa, dove i prezzi addirittura sono scesi. Sì, diciamo che rispetto all'anno scorso, quest'anno si deve registrare un fenomeno inverso e sostanzialmente dobbiamo registrare come la provincia nel quale non solo i prodotti pasquali costano meno, ma addirittura si sono abbassati maggiormente, in questo caso è Padova, con addirittura variazioni di circa un euro sulle uova e 90 centesimi sulla Pasqua in meno, rispetto addirittura all'anno scorso, dove l'anno scorso comunque si era registrato un aumento. Questo veramente fa capire che siamo veramente su una fase in cui le persone ormai anche di fronte a importanti feste non si fanno tanto abbindonare da quelle che sono un po' le mode, ma cercano fino all'ultimo giorno di risparmiare, inseguendo soprattutto quelli che sono i prodotti in offerta. Padova dunque cala, esattamente tu dicevi un euro, 3,99 euro quest'anno, 4,99 euro per un uovo di cioccolato da 220 grammi, insomma è un calo significativo. Le altre province invece come si comportano? Ma le altre province sostanzialmente non è che si possa rilevare discorsi particolari, quanto per esempio ho visto che anche Treviso e Mestre e Venezia sostanzialmente hanno avuto una variazione che penso che non è significativa, per cui nel complesso bisogna dire che quest'anno l'osservatorio non ha evidenziato particolari fenomeni, se non quello dove appunto il prezzo è calato di più. Certo è che è un ragionamento che non ci può non mettere a riparo da quelle che possono essere delle sorprese che chiunque può trovarsi, perché certamente in questo caso non stiamo parlando di prodotti dove le persone hanno modo di poter risparmiare, dove costano meno rispetto a quelli magari dove possono costare di più e vai a spendere anche 30-40 euro, che magari cercando di acquistare prodotti di marca o di moda rispetto a quelli che potrebbero essere di maggior convenienza. Ecco, i prodotti di marca, penso soprattutto alle uova di cioccolato che magari sono marchiate o griffate con i personaggi di cartoni animati, qui ovviamente per accalappiare i bambini. È chiaro che quelle, magari il cioccolato dentro è esattamente lo stesso, però la confezione costa di più. Sono d'accordo, ed è così purtroppo. Non si parla di qualità di cioccolato, ma si parla magari di marchio derivato da quello che è la moda del momento e soprattutto anche da quelli che sono un po' i messaggi che si vuole mandare in virtù di una sorpresa che una persona si aspetta di trovare dentro rispetto ad altri prodotti. Quindi in questo caso le tecniche, le strategie che le case adottano non è certamente quello di puntare sempre sulla qualità, ma di fare proprio tutta un'attività diversa per invogliare i propri bambini a convincere il papà e la mamma a farsi prendere un uovo rispetto a un altro. Qualcuno magari allora cerca di farsi i dolci in casa, ultimamente anche le trasmissioni televisive si sono moltiplicate all'inverosimile, tutti fanno da mangiare, tutti insegnano a far da mangiare, ma è davvero così conveniente? Non sempre è conveniente, dipende sempre anche qui la scelta del prodotto che una persona decide di adottare rispetto ad altre, certamente puntando sulla qualità. E rispetto a quelli che sono altre linee si può arrivare a risparmiare diversi livelli rispetto a quello che può essere un costo che troviamo dei prodotti sugli scaffali. Certamente in questa fase c'è, anche su internet si trovano tantissimi consigli, tantissime ricette proprio per dare indicazioni o suggerimenti alle persone a decidere cosa voler fare. Può essere anche un momento di divertimento di fare una colomba o qualcosa a casa rispetto a acquistarle e magari consapevoli anche di mangiare qualcosa di più genuino rispetto di qualcosa di confezionato. Dunque la raccomandazione anche in questi giorni di spesa tipicamente pasquale, penso soprattutto ai dolci ma anche, ad altri piatti, insomma chi vuole rispettare la tradizione magari qualche carne particolare la compra, le raccomandazioni Carlo in questo caso sono sempre le stesse. Ah, certamente quando si tratta di prodotti freschi bisogna sempre innanzitutto a soffermarci a verificare un po' l'origine e la tracciabilità del prodotto, perché oggi c'è la possibilità di verificare il prodotto da dove proviene e anche dove è stato confezionato e soprattutto stare molto attenti sulla conservazione e ricordarsi che dal momento che il prodotto si apre la data rispetto a quella indicata nella confezione viene alterata, l'alternativa rimane solo quella di congelare. Allora, raccomandazioni ovviamente sagge, di buon senso per questi acquisti in vista della Pasqua. Noi ringraziamo il presidente dell'Adico Carlo Garofolini, buon proseguimento. Grazie a te amico e un saluto a tutti. Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Per riascoltare questo programma, vai su bluradioveneto.it.